Sì, grazie. Anch'io credo che sia importante, importantissimo l'incontro di oggi. Ossia, sono compagni di due generazioni, ma guardate, con un vuoto generazionale molto forte, se ci guardiamo anche all'interno di questa sala, che è un po' uno spaccato, chiamalo, delle sinistre. Ci sono compagne e compagne come voi, 20-25 anni, e compagne dai 50 anni in su, per dire. È successo qualcosa nelle sinistre italiane, è successo qualcosa. Qualcosa può essere addebitato al suicidio del PC, come io credo, ad altri fattori, e sta prevalendo un senso comune, che è quello che tu rappresentavi. Allora, l'incontro di oggi e altri che potranno seguire, che potrebbero seguire, tendono proprio a ricomporre la distanza tra le generazioni, in modo che le compagne e i compagni della mia generazione, o poco sopra o poco sotto, eccetera, possono trasmettere delle idee, delle esperienze e, se vogliamo, anche dei valori, ma anche ascoltare questi compagni della mia generazione, valori e esperienze che salgono dai ragazzi di 20-25 anni che noi non conosciamo. Quindi è un elemento di connessione reciproca. Avete bisogno voi, l'avete dichiarato, abbiamo bisogno noi, quindi molto bene. Ecco, io cercherò di fare un tentativo in questa direzione, già l'ha fatto egregiamente Alfredo, trattando la figura di Concetto Marchesi, al quale è dedicato, non casualmente, cercherò anche di spiegare il perché, questo nostro ambiente. Qualche dato, come si può dire, metodi di anagrafico. Concetto Marchesi muore 55 anni fa, tra l'altro nel febbraio del 1957, a 79 anni. Ecco chi era. C'è un'orazione funebre che la fa per Marchesi, la fa il segretario generale del Partito Comunista Italiano, Palmiro Togliatti, fa l'orazione pubblica funebre, che è ricchissima di citazioni di Gramsci e di De Sanctis. L'unità del tempo, che sta nelle raccolte qui nella nostra libreria, gli dedica quattro pagine fitte, ma anche i giornali borghesi non sono da meno. Corriere della Sera, ad esempio, ora faccio la lettura delle due righe del Corriere della Sera del 13 febbraio del 1957, descrive Marchesi così: militante comunista di ispida personalità, è una scelta di ispida personalità, che ha studiato con penetrazione alcune delle figure più serene del mondo classico, da Petronio a Fedro a Orazio, Seneca, Marziale. E lo fa il Corriere della Sera, così come altri, perché quella di Concetto Marchesi era per davvero una figura anche importante nel mondo della cultura, ma anche molto molto complessa. Non era un compagno semplice o un professore semplice. In lui si componevano almeno due anime: l'anima del filologo raffinato, lo studioso elegantissimo, che era affascinante anche nel suo eloquio, nel suo conversare. Lo ricordava la Stellina su queste cose qua. E anche quello dell'uomo politico impetuoso, un uomo politico non semplice, talvolta beffardo nel suo sarcasmo e addirittura incurante, anzi quasi quasi compiaciuto di essere indicato come settario. Si compiaceva anche dell'essere indicato come settario. Voi, se poi volete approfondire, ricordo ancora la libreria che Elio prima andava a descrivere, ci sono i suoi scritti, ci sono i suoi discorsi raccolti nel libro Perché sono comunista, poi ci sono le sue opere, prima di tutto La fondamentale storia della letteratura italiana. Ora, interessante è guardare anche alla sua vita e capire perché, attraverso la sua stessa descrizione, perché Marchesi è diventato comunista. Perché è diventato comunista? Lui nasce a Catania nel 1878, addirittura un una vita fa, 134 anni fa, per dire. Già a 16 anni lui fonda un giornaletto degli studenti, per esempio, però che appena uscito viene subito sequestrato e il giovanissimo direttore, lui, viene condannato a un mese di reclusione per apologia di reato perché, leggo la sentenza che ho tratto dal famoso libro della libreria, aveva osannato ideologico gli anarchici francesi condannati a morte a seguito dei morti di Parigi dello stesso 1894. La sentenza però diviene definitiva al compimento dei 18 anni, e al compimento dei 18 anni i regi carabinieri lo vanno ad arrestare all'università di Catania, lo portano via. Però non è finita qui, perché Marchesi, impetuoso come abbiamo detto, non si faceva mancare niente, neanche da giovane, e allora durante il mese da carcere lui riuscì a farsene infliggere anche un altro per oltraggio al pubblico ufficiale, aveva insultato pesantemente la guardia carceraria. Insomma, era un ribelle, ma lui stesso si definiva un ribelle, era un ribelle, e lui si racconta così nei suoi libri di memorie, avvertendo che a quel tempo sentiva dentro di sé montare la rabbia di chi ha quasi quasi una vendetta da compiere, ma sentiva anche parallelamente crescere inarrestabile la fede in un ideale da raggiungere, ideale ancora impreciso, non c'è ancora un partito al quale far riferimento, non c'è ancora, poi ci sarà. Ma dove nascono questi sentimenti? È bella anche la lettura di questo pezzo di vita che lui offre di se stessa, certo da qualche lettura indubbiamente, ma nasco soprattutto dallo sguardo lanciato sulla realtà contadina che lo circonda, e lì guarda e vede e cerca di capire del peso insopportabile dello sfruttamento bestiale che opprime i braccianti della sua terra, terra che è ricchissima di oliveti, di vigne, di grano, ma dei quali frutti però chi la coltiva, questi braccianti, non ne gode nemmeno in minima parte. Aggiunge: sono più curati gli asini della mia terra che trasportano le ceste dei frutti e della verdura che non i braccianti che queste ceste riempiono con il loro sudore. E allora il bracciante è oppresso. Allora è oppresso perché ci sono gli oppressori, questo è il punto. Perché è oppresso? Perché ci sono gli oppressori, il barone, il latifondista, e dinanzi al quale gli oppressi abbassano la testa, non si ribellano, considerano allora ineluttabile il loro destino di servi. Allora Marchesi scrive: io allora avevo l'animo degli oppressi, senza però avere la loro rassegnazione. E questa, compagnia compagnia, è l'imprinting del comunista, senza ancora un partito di riferimento, è il tratto. Mi sentono oppresso ma non mi rassegno, mi ribello. Ed è lo spirito che gli è rimasto nella sua lunga carriera di cattedratico latinista, storico della letteratura, docente di Messina, rettore a Padova, però quelle origini gli sono rimaste impresse indelebilmente. Lunga carriera, ma c'erano quelle origini, quel tratto impresso. Ed è intellettuale e militante politico, intellettuale e militante politico comunista, questo è il punto, che nemmeno nel partito, in quel partito che nasce in Italia nel gennaio del 21 e al quale Marchesi è legatissimo sin dall'inizio, ma nemmeno nel partito dismette il pensiero critico che talvolta sfocia nel dissenso, soprattutto su questioni etiche. E allora badate, adesso vi consiglierei la lettura della storia del Partito Comunista di Spriano, di altri, ma di Spriano in particolare, di sentire allora nel partito non era poi così semplice, ma lui lo fa ad esempio quando nel 47 è membro dell'Assemblea Costituente e lui, Marchesi, viola appunto la disciplina del partito e si rifiuta di votare il famoso articolo 7 che è il riconoscimento dei patti lateranensi tra lo Stato e il Vaticano. Quello era l'uomo con le sue contraddizioni, che con le polemiche che i suoi gesti ingeneravano, perché all'interno del partito altri militanti anche di robusto spessore e personalità. Non è che gliele perdonassero tutte queste cose qua, assolutamente no. Ed è su un nervo scoperto, questo va detto, va approfondito, che veniva mossa la critica principale a Concetto Marchese. C'era su un punto, dove è un punto delicato, e lo muoveva questa critica qua, particolarmente Ludovico Geymon che gli muoveva questa critica, e in un modo meno diretto ma altrettanto ruvido anche Luigi Longo, meno diretto che non Geymon, ma e derivava la critica dal fatto che durante il fascismo, credo che voi tutti sappiate, tutti i docenti dovevano prestare giuramento di fedeltà al regime. Ebbene, Concetto Marchesi, ma c'è un perché, a differenza di Gaetano De Santis, grande professore di storia antica che si dimette da rettore pur di non giurare al fascismo, Marchesi invece, autorizzato a Togliatti, così racconta Giorgio Amendola nelle sue memorie, non si sottrae e il 1931 e fa quel giuramento. Ludovico Geymon non gliel'ha mai perdonata, non gliel'ha mai perdonata Ludovico Geymon questo gesto. Cesare Musatti invece lo difese. Musatti e Geymon poi si trovano all'interno di questo circolo intitolato a Marchesi, sì, e discutono. Anche Luigi Longo, lo ripeto, mentre invece Pietro Secchia ha un'ammirazione smisurata nei confronti di Concetto Marchesi. Ma perché succede questo? Vedo dire che a quei tempi lo stesso Partito Comunista clandestino, siamo nel 31, quindi non pensiate soltanto alla resistenza, eccetera, pensate, ecco, sarebbe da vedere particolarmente voi giovani un film che non c'entra con questo, però è Cito Maselli. Cito Maselli, Il sospetto. Il comunista nella clandestinità, quando pensi di essere solo contro il mondo, c'è un partito che è lontano, è a Mosca, poi trasmette, se trasmette tu non sai se capisce, se trasmette giusto, poi ci sono le spie, il controspionaggio per capire l'accerchiamento profondo di quel tempo. E in quel tempo il Partito Comunista clandestino invitava taluni a operare anche dentro il sindacato fascista. Corriere. Dentro il sindacato fascista, Curie, sì, per capire, informarsi, controllare e poi trasmettere al centro, capire cosa sta succedendo dentro lì, capire per mezz'ora. Ed è con questa penetrazione che poi si preparano gli scioperi, quando è il momento degli scioperi, 40, marzo 43-44. Ed è allora comprensibile e credibile, e quindi, anche a mio modestissimo parere, ha ragione Amendola, che il partito avesse assunto anche con chi aveva il compito formativo importantissimo e delicatissimo di essere a contatto con le giovani generazioni, che con i mezzi e che il tempo consentiva di fare la stessa parallela operazione. Ma c'è una controprova della veridicità dell'analisi che fa Amendola e non fanno gli altri, perché Marchesi, questo è comprovato, attraverso i suoi scritti criticava infatti indirettamente il fascismo con una sua metodologia particolare, che tra l'altro era efficacissima nel suo mondo, in quanto lui collocava qua e là messaggi dentro le sue opere, messaggi che facevano opinione. Faccio soltanto un esempio dei tanti che si possono fare, ne faccio due anzi. Il primo, dalla collocazione che Marchesi fa di Giulio Cesare in quello che è considerato il suo capolavoro, il suo geniale capolavoro, che è La storia della letteratura italiana. Lui colloca lì tra le tante una frase, lui dice: le bocche si chiudono quando si è servi di e non signori della storia. Ecco quella frase, le bocche si chiudono quando si è servi, è circolata in tutte le università. Ma allora c'è qualcuno che pensa, c'è qualcuno che si ribella, c'è qualcuno che critica il regime. Ed era una frase che era inattaccabile dall'ovra, la polizia segreta, che non ci arrivava a queste finezze, e veniva fatta circolare di bocca in bocca, faceva opinione, costruiva opposizione tra docenti e studenti. O ancora più esplicitamente, ma qui siamo già nel 42, siamo già insomma a Perugia, quando in una conferenza su Cornelio Tacito Marchesi azzarda la critica diretta e assai pericolosa alla Germania nazista, attacca la Germania nazista che è l'alleata dei fascismi, del fascismo. E qui a rischio e non si riesce a capire perché gliela fanno passare. Poi si arriva al 43, all'8 settembre, alla Repubblica di Salò, e la scelta diventa netta, inequivocabile, non più mediata dentro scritti e mezze frasi, o sei di qui o sei di là. E lui è il passaggio alla clandestinità, alla lotta armata, anzi, che Marchesi annuncia in un celeberrimo appello rivolto agli studenti dell'Università di Padova, di cui è rettore, ai quali chiede di unirsi alla resistenza armata. Tra virgolette, battaglia suprema per la giustizia e la pace nel mondo. Ecco, compagni e compagni, mi rivolgo soprattutto ai compagni più giovani, quel discorso in buona sostanza può essere considerato il manifesto del nostro centro culturale, il manifesto del nostro, al quale ci si ispira. Poi Marchesi ripara a Milano nel Natale del 43 sotto il nome di avvocato Antonio Marcinelli, a febbraio del 44 in Svizzera, a settembre all'Ossola, la Repubblica Partigiana, ecco, si è consentito un ossimoro, la concreta utopia di un mondo nuovo autogestito e libero. Con lui ci sono tanti, Umberto Terracini, Franco Fortini, tanti altri. Poi il sogno svanisce all'Ossola, ma rinasce con l'esurrezione dell'aprile del 45. E poi c'è un fatto di cui si parlò a lungo, guardate che se ne parla ancora oggi, è perché nel gennaio del 44 Giovanni Gentile, già ministro della Repubblica, ministro della Pubblica Istruzione negli anni 20, membro del Gran Consiglio del Fascismo fino al 30, sulle autorevoli pagine del Corriere della Sera rivolge un invito alla concordia nazionale. Deponete le armi, fate pace, così l'appello. Rivolge un invito alla concordia nazionale mentre a Milano le camicie nere della Brigata Muti e la Banda Cocca arrestano, internano, torturano, fucilano donne e uomini, mentre partono i treni per i campi di sterminio, non solo treni carichi di ebrei ma di comunisti e di operai colpevoli di aver partecipato agli scioperi del marzo del 43. Invito la pace mentre nelle valli appenniniche le SS in fuga, accompagnate dalle camicie nere, compiono stragi orrendi. Allora Giovanni Gentile, schierato di fatti con loro, chiama la pace sociale, il vogliamoci bene, in buona sostanza invita la resa, invita i partigiani alla resa. Ed è allora che su un giornale clandestino, La Lotta, gli risponde subito, lucido e sferzante, il partigiano Concetto Marchesi. Leggo il passaggio, dice Concetto Marchesi con il linguaggio enfatico del tempo e anche suo in particolare: concordia è unità di cuori, concordia è congiunzione di fede e di opere, concordia non è residenza inerte e fangosa di delitti e smemorataggine. Rimettere la spada nel fodero è rifucillare l'assassino. Così stentorio, insomma, lui ti dice non è tempo di ambiguità, è a capo. Ma la vicenda non è finita, ha un seguito, perché nel marzo del 44, quindi 2 mesi dopo, lo scritto di Marchesi, però non più firmato, viene integralmente pubblicato sulla rivista clandestina del PC La Nostra Lotta, a quale però viene aggiunta una frase che non è una frase da poco. Si dice, dice Spriano, che forse l'ha aggiunta Licausi, un altro grande dirigente. Marchesi concludeva così: rimettere la spada nel fodero e rifocillare l'assassino. Vi si aggiunge, per i manutengoli del tedesco invasore e dei suoi scherani fascisti, senatore Gentile, la giustizia del popolo ha emesso la sentenza, 2 punti, morte. E il 15 aprile 1944 il senatore Giovanni Gentile viene giustiziato a Firenze per mano del GAP di Bruno Fanciullacci. Ora, enorme scalpore al tempo, perché Gentile è un personaggio pesante nell'Italia del tempo, con riverberi che arrivano incredibilmente fino ad oggi, perché pur essendo passati, quant'è, 70 anni, più o meno, sulla vicenda Gentile, fanciullacci e marchesi, ritenuto il mandante, scatena il finimondo. Ci sono, è incredibile, processi in corso tuttora a Firenze su questa questione. Ed è venuto qui 2 anni fa, 1 anno e mezzo fa, l'avvocato Mandaran, un compagno, che ha scritto un libro proprio su Bruno Fanciullacci, eccetera, pure la questione. Ma anche l'autorevolissimo Luciano Canfora ha scritto brillantemente, adesso lo vorrei chiamare, ma no, no, un affascinante noir, edito da Sellerio una decina di anni fa, del titolo La Sentenza. È dell'85. Dell'85. Sentenza. Dove Canfora indaga e si interroga sul fatto se insomma quella lontana esecuzione sia stata ordinata dall'alto, dal centro estere del PC, da Togliatti, insomma, semplifichiamo tutto, oppure invece non sia stata una svolta autonoma dal basso di gappisti fiorentini, come tutti i noir che si rispettano non si svela il finale. Il fatto è che quell'articolo del gennaio 44 di Marchesi, in ogni caso centroestere o un intervento autonomo di Fanciullacci e dei suoi uomini, beh, è stato decisivo quell'articolo, decisivo perché l'ha scritto Concetto Marchesi, perché Concetto Marchesi, con tutte le contraddizioni del personaggio, di ispida intelligenza, come diceva il Corriere della Sera, nel frattempo è diventato importante, anzi importantissimo, dentro il Partito Comunista. Tant'è che Togliatti, lui ha acquistato grande prestigio. Togliatti, credo che voi sappiate, voglio dire, interpretando il pensiero di Gramsci, strumenta il partito, che poi sarà il grande, il partito di tipo nuovo, da Salerno in poi, e lo struttura sul modello gramsciano, operai intellettuali e rivoluzionari di professione, eccetera. Allora lui guardava Togliatti, il gruppo dirigente del tempo, grande intellettuale, il gruppo dirigente del tempo, guardava e coltivava un rapporto anche contraddittorio, talvolta molto acuo, con scrittori, accademici, artisti, scienziati come Pontecorvo e altri ancora. Ed è Togliatti che allora, nel secondo consiglio nazionale del Partito Comunista Italiano, che si tiene a Roma dal 7 al 10 aprile del 1945, quindi qualche giorno prima dell'insurrezione di Milano, Torino e Genova, il primo consiglio nazionale è la svolta di Salerno dell'anno prima, Togliatti nel secondo consiglio nazionale assegna a Concetto Marchesi il grande discorso di apertura. È Concetto Marchesi che apre il secondo consiglio, che si introduce con un incipit di forte impatto emotivo, perché in quella platea si ritrovano insieme per la prima volta compagni e compagni che si erano persi di vista oppure che non si erano mai nemmeno conosciuti. Si incontrano i fondatori del 21 del partito e compagni che hanno 20-25 anni, che hanno vissuto durante il periodo fascista, e poi compagni di Spagna, compagni dei Monti, compagni della lotta dei Gappa, e spesso non si conoscevano se non attraverso i nomi di battaglia, o ancor più spesso erano compagni di espressione di gruppi comunisti che non erano nemmeno in contatto tra di loro. E in quel consiglio nazionale il 55% di loro aveva meno di 25 anni, guardate, eccetera. Marchesi introduce così, ma è una frase che strepitosa. Io mi trovo con tutti voi che dopo tanti anni siete tutti insieme usciti alla luce del sole. Alla luce del sole. E il consiglio si alza in piedi perché è il ventennio dell'oscurità, la luce del sole. Queste cose. Quindi grande l'emozione. Poi parla Togliatti, ed è un discorso ragionato. La sua non è una relazione, è il rapporto. Con i termini del tempo, il Partito Comunista Italiano e i suoi compiti, e questo è il rapporto di Togliatti, il partito di Bono. Marchesi di questo partito è in prima linea, Pietro Secchia guarda lui con orgoglio, deputato della Costituente, parlamentare del 48, parlamentare poi nel 53, non nascondendo mai le proprie idee anche quando sono in contrattendenza rispetto al senso comune opposto. E quando decideva di esprimere le proprie idee in controtendenza col senso comune opposto, guardate che non aveva mezzi termini, ma aveva anche l'accortezza. Lui non diceva mai non sono d'accordo, lo faceva dire ai classici, non so cosa dire, l'accortezza di attingere alla sua smisurata cultura per, come dire, dissimulare con forbita e inattaccabile eleganza. Non diceva non sono d'accordo, con un artificio lo faceva dire agli altri. Ad esempio nel 56, ricordava, 56 lo storico congresso, chiamalo l'ottavo congresso italiano del Partito Comunista a seguito del ventesimo del Partito Comunista Unione Sovietica, che è il congresso della destalinizzazione, il rapporto di Khrushchev, poi è rimasto famoso perché si tiene appunto dopo il ventesimo congresso che avvia il processo di destalinizzazione. Marchesi interviene dalla tribuna dell'ottavo congresso, ascoltatissimo, ho letto, ascoltatissimo, non è d'accordo con questa demolizione di Stalin, che parte oltretutto, qui è molto polemico, da parte di chi fino al giorno prima osannava Stalin quando era in vita. E allora usa con sarcasmo sferzante un dotto artificio analogico. Lo leggo, una frase breve, ma qui c'è la cosa. Dice: Tiberio, uno dei più grandi e infamati imperatori di Roma, dice Marchesi, trovò il suo implacabile accusatore in Cornelio Tacito. A Stalin, meno fortunato, è toccato Nikita Khrushchev, appunto lì. Ha lanciato un messaggio in mezzo a tutta la sala, ha fatto capire questa. E questa, che ho raccontato con tratti superficiali e qualche esempio, è la complessa e straordinaria figura di questo intellettuale militante comunista al quale i fondatori di questo centro hanno voluto dare il nome, come loro e noi volessimo imprimere a questo luogo un carattere, oserei dire protestante, ma intendetemi, militante certo, ma senza barriere. Ora, se noi siamo all'altezza, questo dovete domandare, proprio non lo so, ci proviamo. Certo che a differenza del passato, allora butto il pensiero un po' provocatorio che esula un po' dalla descrizione della figura, ma non posso fare il biografo e così. A differenza del passato, noi compagni e compagni viviamo per davvero una fase sicuramente rivoluzionaria. Ma attenzione, la rivoluzione è dentro il capitale, non è contro il capitale. Questo è l'elemento drammatico. E latitano gli intellettuali nel campo della sinistra. Si sono ritratti, si sono rassegnati come i braccianti del catanese di un secolo fa e passa. E gli operai, anche loro sono in larga misura rassegnati. Certo, qualcuno si ribella. Che cosa prevalgono nei partiti? Prevalgono i quadri intermedi, il partito di Gramsci, intellettuale, classe operaia, funzionari, rivoluzionari professione al tempo, funzionari, eccetera. Prevalgono i funzionari. Prevalendo i funzionari, parlo dei partiti che conosco, poi vi direte che non è così, la mia è un'opinione. I partiti, pertanto, perdendo gli operai, i lavoratori, gli studenti, quelli che sono a contatto con il territorio, le questioni, eccetera, perdendo gli intellettuali, quelli che sono, producono delle idee, trasferiscono, eccetera, non hanno né testa né radici. I partiti non hanno né testa né radici. E chi la fa la politica? Ma guardate che è drammatico guardare la situazione italiana. Non sono, è difficile rintracciare un Gramsci, un Togliatti, ma nemmeno un Berlinguer, un Marchesi, non li rintracciamo. La politica la fanno in televisione Celentano, Crozza, Santoro, Travaglio e Grillo. Questi sono gli uomini della politica e sono come il predicatore. A me capita qualche volta a Sky di guardare le televisioni americane. I predicatori della domenica mattina delle televisioni americane sono poi questi. Allora, quello, ed è per quello che è importante un luogo come questo, di fronte al processo di americanizzazione non contrastato da un'altra cultura che ci sta avvolgendo. Ma questo è un processo di americanizzazione senza fordismo, per rifarci al titolo di uno studio di Gramsci. Ma oggi non ci sono gli intellettuali in questo momento di rivoluzione senza fordismo eccetera, che leggono per noi la realtà, ma soprattutto che la compongono la realtà con le modalità per cambiarla. Ma allora, ho finito per davvero? Il mio pessimismo evidentemente sarà dell'intelligenza, non lo so, certamente la volontà non mi manca, ma è quello che è. Ma se la realtà non la si vuole cambiare, guardate che Monti o Berlusconi vivono per l'eternità, l'uno sobrio e l'altro gaudente, ma sono i dirigenti perfetti. E manca il partito. Ci sono sì i movimenti, la FIOM, il Notar, guai se non ci fu Genova, importante, ma i movimenti senza partito e senza partito comunista non portano a cambiamento radicale. Ho finito, però ovviamente l'ultimo passaggio esula dal mandato assegnatimi, che era quello di ricordare Concetto Marchesi, latinista, comunista e punto di riferimento e di bandiera di questa nostra bella sede. Grazie.